Mi sono un po' perso, scusate. E allora, gli interessi, detto, non sono solo questi, ci sono anche interessi da parte delle farmaceutiche e da parte delle aziende OGM. Perché avete visto nel filmato di Spazio Indaco, si ritrova sul terreno anche il carbonato di calcio. I sali di calcio a cosa servono? Servono a inaridire sul terreno. E tant'è vero che noi vediamo sorvolare soprattutto i campi coltivati. Le zone più isolate in Italia, almeno, sono le zone della pianura padana e sono le zone, diciamo, utili da un punto di vista strategico per quanto riguarda l'interruzione delle fronti nuvolose. Quindi vedremo che, per esempio, la zona per eccellenza più percorsa da aerei chimici è la Liguria, perché arrivano le perturbazioni dall'Atlantico, normalmente dalla Francia, che vengono spesso deviate quando sono grosse e vengono distrutte quando non sono tanto ampie. Vengono distrutte appunto con queste sostanze, con questi bario, anch'esso come il metallumino è igroscopico, cioè assorbe l'umidità atmosferica, quindi il cospargimento di queste barriere chimiche, delle vere e proprie barriere chimiche, infatti questi aerei coprono delle rotte a cacchiera in modo tale da coprire completamente delle aree strategiche, impedisce la formazione di nuvole che possono generare pioggia. Ma nel contempo abbiamo detto sulla pianura padana o comunque sulle zone coltivate di vitigneti, di vigneti e compagnia bella, vediamo il passaggio di questi aerei. Perché? Perché il terreno deve essere inaridito. E perché deve essere inaridito il sistema, il terreno? Perché noi italiani non abbiamo gli OGM. E allora cosa si fa? Si rendono sterili i terreni, i coltivatori cominciano ad avere problemi con le coltivazioni di grano ed altre. E quindi a questo punto ci sarà l'azienda OGM di turno che dirà: non c'è nessun problema, ci siamo noi con i nostri organismi geneticamente modificati e vi offriamo delle sementi resistenti alla siccità e in grado di produrre anche in terreni poco fertili. E il gioco è fatto. Il problema è che però le sementi OGM sono sementi sterili, perché se noi piantiamo una semente normale, l'anno successivo dai semi del pomodoro possiamo far crescere un'altra pianta di pomodoro, ma le sementi sono apposta create sterili, in modo tale che l'anno successivo il coltivatore dovrà di nuovo acquistare altra semente dall'azienda di turno, la Bayer, la Monsanto. La Monsanto, per esempio, quest'anno ha avuto un utile rispetto all'anno scorso del 40% in più. Cioè, per dire, per esempio, in India, dove sono stati introdotti gli OGM per, secondo loro, contrastare la fame che c'era, gli OGM ormai hanno preso il campo completamente in India, quest'anno si sono suicidati 30.000 contadini. Qualcuno ve l'ha mai detto che si sono suicidati? Perché erano in crisi mistica? No, perché non riuscivano a comprare le sementi per l'anno successivo. E quindi, quando la gente è disperata, l'unica cosa che può fare è togliersi la vita, specialmente in paesi dove, diciamo, che il rapporto con l'aldilà è differente da quello che è per normalmente un cattolico, un cristiano. Quindi il suicidio non ha quella gravità che possiamo avere noi cattolici. E quindi 30.000 suicidi perché non erano in grado di comprare le sementi OGM. Tra l'altro bisogna dire che le sementi OGM creano anche un altro danno. Oltre a creare danni genetici, quindi è stato provato da diversi scienziati dissidenti, che le sementi OGM creano delle modificazioni genetiche nei topi campioni, quindi nelle cavie, e chiaramente siccome il topo è paradossalmente, sembra, però è così molto simile all'essere umano, tant'è vero che la maggior parte dei farmaci vengono prima testati sui topolini, è stato dimostrato che questi topi hanno delle mutazioni genetiche che si assumono organismi geneticamente modificati. Questo logicamente chiaramente indurrà dei problemi anche a noi. Allora, vediamo qua un esempio veloce di quello che sono i passaggi non ad alta quota ma a bassa quota, e vedremo in questo filmato molto breve che un aereo che sorvola, caso vuole, la mia abitazione passa estremamente basso, ha una livrea, non una livrea, ha una decorazione che lo fa immaginare come un aereo di linea, infatti hanno colorato i motori di rosso, e all'inizio non emette nessuna scia, ma dopo inizia, e poi vedremo perché. Intanto cosa abbiamo visto? Un attimo fa vi ho detto che queste irrorazioni vengono prevalentemente fatte sui campi coltivabili, ma è anche vero che vengono prevalentemente fatte sui centri abitati. Tanto è vero che in zone disabitate non si vede quasi assolutamente niente del genere, anche se vi sono dei corridoi aerei irregolari. Questo perché? Perché in base a tutto questo discorso che facevo prima della polivalenza delle scie chimiche, non c'è solo l'interesse relativo al funzionamento dei radar militari e OGM e farmaceutico, dicevo perché? Perché se voi vi ammalate di malattie neurodegenerative, come per esempio il Parkinson, facendo le corna nessuno. Però che succede? Questa malattia non è una malattia che in 2 anni si fa andare all'apprendimento, è una malattia che può portarvi ad una degenerazione progressiva che però può durare decenni. In questi decenni il malato viene più o meno curato, per modo di dire, perché nel caso del Parkinson c'è la levodopa, che è una pastiglia che bisogna prendere 3 volte al giorno, che serve a ripristinare in maniera così parziale la trasmissione dei segnali tra i neuroni in modo tale da evitare il più possibile i tremori. Però questi farmaci, sebbene almeno per quanto riguarda l'Italia vengono forniti dal sistema sanitario, sono farmaci che comunque dal sistema sanitario e dallo Stato vengono pagati alle farmaceutiche, quindi sono soldi. Quindi noi ci ammaliamo di malattie neurodegenerative che durano anni, noi abbiamo una sofferenza, i nostri parenti hanno di conseguenza seri problemi, perché chiaramente anche nel caso dell'Alzheimer è una malattia altrettanto grave, perché il malato di Alzheimer a mano che passa il tempo non ricorda neanche la faccia dei propri parenti, magari scambia il vasore elettrico per il phon, si vuole asciugare i capelli con il vasore elettrico. Perché? Perché i neuroni non trasmettono più i segnali e quindi la persona assume sempre più un comportamento da demenza, pur magari appunto essendo anche una persona di 30 anni. E questo chiaramente comporta per noi un problema serio, sia morale che materiale, nel gestire un malato di questo tipo, ma per le farmaceutiche è un business. E quindi ecco che certi metalli fanno bene al portafoglio di certune persone. Cosa curiosa, per esempio la Liguria è stata l'anno scorso, poi oggi mi raccontavano che l'idea è stata presa anche da altre regioni, è stata la regione pilota in questo senso. E vi spiego come funziona l'inganno che c'è da parte delle istituzioni. Infatti bisogna focalizzare questo problema, purtroppo le istituzioni non sono per il cittadino, ma spesso lavorano e giocano contro il cittadino. L'esempio è questo: la Regione Liguria ha organizzato a livello nazionale, come sperimentazione, come regione pilota, un sistema che permette di effettuare il mineralogramma agli automobilisti. Voi direte, ve lo spiego. Allora, sapete che c'è una campagna, tutti i giorni ci fanno vedere, Tizio era ubriaco, è più drogato e ha messo sotto tale persona e l'ha ammazzato. Tutte le volte che c'è qualcuno che ammazza qualcuno in auto, è ubriaco e drogato. Ma già così ne punta. Ma loro cosa hanno fatto? Allora, fermano la polizia stradale e anche i vigili urbani, sono in condizione di fermare un cittadino sulla strada e di fargli un controllo, non più col palloncino o con lo strumento elettronico che si misura l'alito per vedere se sei ubriaco o se hai assunto droghe. No, ti fanno il mineralogramma. E però ufficialmente ti spiegano che il mineralogramma serve per vedere se ti sei drogato. Non è vero. Perché il mineralogramma è un esame del capello o dell'unghia che rileva la presenza di metalli nell'organismo. Allora loro cosa fanno? Da un lato si cospargono l'atmosfera di metalli, dall'altro lato devono fare uno screening della popolazione per vedere quanti metalli abbiamo assorbito. E siccome noi siamo stupidi cittadini, ce la fanno bere così e ci dicono che viene fatto il controllo per la sicurezza stradale e ci viene fatto da oggi una nuova tecnologia, una nuova metodologia per cercare il mineralogramma per vedere se siamo drogati. Ma dove? Perché il mineralogramma, oltre ad essere un esame molto costoso per, diciamo, sono almeno 200 euro all'esame, quindi per la comunità, visto che paghiamo sempre noi, è un esame costoso, serve per vedere se abbiamo metalli nell'organismo, non per vedere se siamo tossici o se abbiamo bevuto il giorno prima, perché misura l'accumulo di metalli nell'organismo, accumulo nei 6 mesi precedenti, e non mi possono certo multare o togliere la patente, ammesso in un concesso che fosse possibile, se evidenziano che io mi sono drogato, che ne so, un mese prima, a parte che appunto, come abbiamo detto, nel mineralogramma non viene fuori niente del genere. E allora cosa stanno facendo? Stanno facendo uno screening della popolazione per vedere quanti metalli assumiamo e ce lo spacciano come un sistema per la sicurezza stradale. E questa idea, che poi chiaramente è nata dall'ASC, perché è partita dalla regione, verrà, diciamo, diffusa in tutto il paese. Vediamo un po' cosa c'è qui, così magari intanto lo mando avanti. Scusate, Allora, mandiamo un attimo questo che prendo provvisionato, va? Allora, quell'aereo lì non è un aereo di linea, lo vedete, è un aereo di circa 19 metri di apertura alare, mentre un aereo di linea è di circa 40-50, è un drone, cioè è un aereo senza pilota. Questi aerei di solito fanno dalla prepista alle irrorazioni, servono per misurare, come abbiamo detto, in funzione anche dei lavori che sta facendo il CNR in base all'accordo Italia-USA, serve per rilevare che ne so, qualcosa dal punto di vista elettroconduttivo o di altri tipi di misurazioni in atmosfera. Questo è un altro velivolo che sta emettendo delle scie a bassa quota, e come vedete anche in questo caso non è un aereo di linea, perché si tratta anche in questo caso di un aereo senza pilota di piccole dimensioni, e questa è la pappa chimica che viene creata durante le regolazioni. Questa anche, vedete, è una copertura artificiale, quindi non sono nuvole normali, sono le famose innocue velature, oppure velature in spostamento che ci vengono dette dai servizi meteo, e queste velature servono per due fattori. Primo, come abbiamo detto prima, per ritrasmettere le onde elettromagnetiche, e vedremo anche non solo da ARP ma anche da qualcos'altro, adesso cerco di parlarne prima che mi dimentico, ma anche per oscurare il sole. Perché oscurare il sole? Perché il sole è vita, il sole attiva la fotosintesi clorofilliana delle piante, quindi le piante vengono danneggiate, e lì torniamo al discorso degli OGM. Ma questo, per esempio, lo metto un attimo in pausa, e così mi ricordo che lo devo dire, ma servono anche a danneggiare gli organismi viventi in quanto gli esseri umani. Perché? Perché se io creo delle coperture artificiali, in Liguria sono quasi all'ordine del giorno, se io creo delle coperture artificiali, impedisco l'irraggiamento solare completo, cioè tutte le frequenze della luce solare non passano, non arrivano al suolo, e quindi l'organismo umano produce vitamina D. La vitamina D è una vitamina che viene prodotta solamente se sottoposti a irraggiamento solare da parte degli organismi, degli esseri umani. Che cos'è la vitamina D? È una vitamina antitumorale. Quindi se noi non creiamo vitamina D perché prendiamo poco sole, i bambini diventano rachitici. E generalmente l'essere umano non produce vitamina D e quindi è più soggetto a prendersi un tumore. Che cos'è questo? È un 747. Apparentemente rilascia delle scie di condensa, perché tanti giustamente dicono che deve essere una distanza pari alla metà dell'apertura alare. Adesso ve lo faccio vedere con l'aper. Vedete? Allora da qui a qui c'è la metà dell'apertura alare. E la scia, come ci dice il, come ci dicono gli organismi ufficiali, la scia di condensa ha la possibilità appunto di trasformarsi da aerosol non visibile a scia di condensa vera e propria, cioè le scie sublimano in questo tratto qua, e quindi apparentemente questa è studiata bene. Sembra una scia di condensa, perché la scia non è direttamente attaccata ai motori, ma è distante. Poi ci sono alcuni ricercatori, bontà loro, la buona volontà c'è sempre, però sbagliano, che dicono che le scie chimiche si distinguono dalle scie di condensazione perché sono persistenti, cioè sono lunghe centinaia di chilometri, decine di chilometri, si espandono e persistono anche per ore. È vero, tant'è vero che la NASA, per giustificare quello che stanno combinando, perché loro lo sanno, la NASA addirittura ha dei corsi scolastici per bambini per educare i bambini a riconoscere quelle che sono scie chimiche, ma che per la NASA sono scie di condensazione, cosiddetti cirrus radiaticus, così le chiamano. In pratica alcuni ricercatori dicono che appunto le scie persistenti sono chimiche e le scie di tipo non persistente, quindi evanescenti, sono scie di condensazione. Purtroppo non è così, perché in alcune, fino a un anno fa, la maggior parte del tipo di irrorazioni erano composte da scie di tipo persistente, perché non c'era informazione in merito, non c'era Marciano che andava in televisione a rompere le scatole, non c'erano i ragazzi che si davano da fare su internet e sul forum, aprendo blog come il nostro amico Vittorio Ferdito e via dicendo. Quindi non c'era informazione e chiaramente non c'era bisogno di dissimulare. Ora, la maggior parte delle irrorazioni fatte con scie persistenti, perché quelle persistenti servono per scopi militari, sono indispensabili, perché abbiamo detto riflettono le onde elettromagnetiche, durante la notte sono più frequenti le irrorazioni con le scie persistenti. Durante il giorno vediamo voli apparentemente ingenui, normali, tranquilli, innocui, con scie di tipo evanescente, non persistente. Allora, l'occhio non attento o il ricercatore che non ha studiato a fondo la questione per quanto riguarda la questione quota, pensa che quelle siano uscite con l'inflazione. Ma vediamo che questo 3747 passa sopra il quartiere di Sanremo, periferico di Sanremo, a circa 2000 metri di quota. A 2000 metri di quota non ci sono i parametri della formazione di scelte corrette, per cui quelle sono scelte. Ma non solo, questo 747 l'abbiamo visto appartenere ad una compagnia di volo cinese, una compagnia che fa voli intercontinentali. E quindi in questa direzione, che era est-ovest, oltre ad essere fuori quota di circa 9000 metri, che è la quota regime di un 747 dai 12 ai 13.000 metri, era anche fuori rotta in direzione ortogonale. E non solo, era anche fuori rotta di circa 1000 km, perché questi voli che fa questa compagnia aerea civile non coprono l'area sopra la Liguria. Non c'è qualcosa che non va. Allora, torniamo un attimo indietro, torniamo agli studi di Erdlund e vediamo che Erdlund aveva anche consigliato ai militari di usufruire della collaborazione delle compagnie aeree civili, perché solo gli aerei militari non sarebbero stati in grado di coprire l'intero globo di particelle metalliche direttamente. Quindi avevano bisogno della collaborazione delle compagnie aeree. E infatti lo vediamo, questo è un aereo di linea che esce fuori di rotta di un bel po', in pratica è un volo clandestino. Abbiamo visto nel documentario di prima che questi voli non vengono identificati dal radar, cioè il transponder, questo. Il transponder è un'apparecchiatura elettronica che obbligatoriamente serve a far identificare il volo. Invece questi voli sono voli fantasma, che non esistono. Sopra Torino, in una traiettoria fuori dai corridoi civili, a bassa quota, e noi per esempio abbiamo studiato un altro sistema per capire se un velivolo è a bassa quota, è la trasmissione del suono. Infatti facendo calcoli che derivano proprio da studi fatti sulla trasmissione del suono, abbiamo potuto verificare che se un aereo viene percepito, che sia durante il giorno con il traffico regolare e soprattutto di notte, questo aereo non vola a 12.000 metri di quota, perché l'aria a quella quota è talmente rarefatta che il suono non può essere trasmesso. Ecco, adesso sentiamo questo, poi vi spiego. Il suono non può essere trasmesso fino al suolo, eh? Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza della Delta, sì. Te lo posso dire con precisione perché ero presente. segnalato nessuna. Ecco, quindi la notizia è infondata. No, assolutamente, guardi, le posso dare anche i tempi? Sì. Aspetti che qui c'ho il rapportino. Allora. Le riordine di pochi quarti che per scaricare ci vogliono almeno 45 minuti. Bravissima, infatti, ma pensi che addirittura abbiamo trovato delle fotografie che probabilmente a questo punto da quello che mi dice lei mi viene da pensare siano state falsificate, che ritraggono 767 della Delta Airlines in parte di full dumping sui cieli di Torino. No, ma non c'era neanche arrivato oltre. Ecco, è passato alle 10.46. Esatto, e l'allarme è alle 11.01. Alle 10.59 c'è l'allarme. Sì. Quindi, ecco, quindi era già nella fase di salita, e è atterrato alle 11.15. È tempo giusto di scendere. Sì, la procedura, solo procedura di atterraggio. Ecco, una curiosità, la pista utilizzata... Aspetta 5 destra. Ecco, e si mette l'aereo... Va bene, allora, quindi il grosso è stato ascoltato. Voi avrete detto, ma che cos'è? Questo filmato ve l'ho fatto vedere e ascoltare. Il primo ritrae un velivolo che visibilmente rilascia scie di tipo sconosciuto, non dai motori, come ci viene spiegato, cioè che la condensa è un fenomeno reale, questa si deve verificare all'uscita dei gas in carico dei motori. Invece quell'aereo rilasciava dense scie dai bordi alari. Allora cosa è successo? Questo aereo è stato ripreso sul cielo di Torino da un attivista, dal veterinario Nico Pellani, e in pratica ha fatto scalpore questo video, perché chiaramente era una prova provata che con qualcosa sta succedendo nel nostro cielo, cioè ci sono aerei a bassa quota che volano e rilasciano scie, però ci hanno sempre spiegato che sono aerei di linea e che sono scie di prudenza, ma lì quell'aereo rilasciava scie non dai motori. Allora subito, immediatamente, il sito md80.it, che è un sito che contiene al suo interno un forum di discussione e che fa capo, diciamo, voi sapete che il maggior aereo, almeno per quanto riguarda l'Italia, per esempio l'Italia ha un parco macchine dell'80% di MD80 ed MD82, è quel tipo di aeroplano che ha i motori attaccati alla fusoliera, due motori attaccati alla fusoliera. E questo sito rappresenta questo tipo di aereo, apparentemente da parte degli appassionati che hanno aperto un sito, che però ha un'ufficialità notevole, è frequentato anche da piloti veri, e subito hanno aperto una discussione nella quale hanno inserito due fotografie presentate da un anonimo personaggio che si spaccia per fotografo, il quale mostrava il velivolo della Delta Airlines durante il suo passaggio e durante un fenomeno di fuel dumping, cioè se un velivolo è in emergenza e supponiamo ha il carrello danneggiato e ha il serbatoio di piedi, per evitare che all'atterraggio di emergenza vada ad incendiarsi, il carburante viene scaricato. Il problema è che intanto per scaricare il carburante bisogna essere in zone, nell'intervista ancora la responsabile della SEA lo spiegava lei stessa, comunque bisogna essere su un'area disabitata. Normalmente il fenomeno di fuel dumping, cioè di scarico di carburante, viene effettuato sul mare o in alta montagna e non su un centro abitato. Però secondo gli esperti, tra virgolette, che hanno preparato anche un corposo documento di 300 pagine per dimostrare che le scie chimiche sono il prodotto della paranoia di alcuni cittadini, hanno presentato una falsa serie di fotografie che rappresentava quel tipo di aereo, quell'aereo lì, che effettuava uno scarico carburante. In pratica hanno costruito un fake, cosiddetto un falso, per giustificare le riprese del video che aveva fatto quel ragazzo lì e che aveva messo su YouTube, che è il canale video che c'è su internet. chiaramente dovevano ridimensionare la questione, perché un aereo che stava effettuando una irrorazione chimica particolare era stato purtroppo ripreso, e quindi c'era bisogno di cancellare l'idea che fosse un'irrorazione per spiegarla come fenomeno di normale scarico di carburante dovuto all'emergenza di un velivolo. Fatto sta che, appunto, facendo le verifiche con la responsabile SEA che aveva gestito l'operazione, abbiamo potuto verificare che non c'è stato mai nessun fenomeno di scarico carburante sul Torino, né quel giorno né altri giorni, e quindi abbiamo potuto dimostrare che i responsabili di MD80 si sono resi responsabili di un falso, che è punibile anche dalla legge penalmente, per coprire le irrorazioni chimiche. Quindi vediamo che i piloti civili e organismi collegati ai piloti civili e alle compagnie aeree civili hanno qualche cosa a che vedere con le irrorazioni chimiche. Abbiamo detto all'inizio che Airfund proponeva la collaborazione delle compagnie aeree civili per poter coprire l'intero globo. E infatti probabilmente così è stato, specialmente per quanto riguarda le compagnie aeree low cost, perché è impossibile avere compagnie aeree che vendono i biglietti a 7 euro e poi nonostante ciò sono completamente inattivo. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo detto che il filo d'alluminio è un ottimo additivo, quindi prendiamo l'utile e il dilettevole, prendiamo magari dei soldi da organismi sconosciuti e nel contempo risparmiamo anche carburante. Questo è un buon sistema per arrotondare all'interno delle contabilità in nero che ci sono all'interno delle compagnie aeree. Ci sono delle prove su questo? Ci sono delle testimonianze. Vediamo per esempio e ascoltiamo soprattutto questa testimonianza che mando subito adesso, e così vediamo che cosa succede nei nostri cieli, nella nostra risaputa, anche ad opera di aerei civili. Ma sono sicuro che lei l'ha detto da tutti. Sicuramente l'ha sentito da tutti. Da tutti. Niente, ci invitava tutti di abbassare le tendine. Ah. E lo, diciamo, ce lo diceva anche con una certa determinazione. Guarda che era a pieno giorno, vero? Com'è? Era a pieno giorno? Sì, sì, sì, no, era assolutamente pieno giorno, tra l'altro il tempo, ovviamente, stando sopra le nuvole, era assolutamente sereno. Niente, ha invitato tutti ad abbassare le tendine, ma la cosa che mi ha, diciamo, dato più nell'occhio è che dopo l'annuncio le hostess si sono preoccupate di andare a verificare effettivamente se si vede l'uomo passato. Ma verificare una, sì, sì, non un controllo, non può essere un passaggio semplice nel corridoio, butta un occhio. No, no, hanno controllato a uno i finestrini di ognuno, che fossero effettivamente abbastanza. Ti sei fatto una domanda tu? A me ha dato più nell'occhio questa scrupolosità delle hostess, sì, anche con una certa prepotenza, si tiravano fra i sedili proprio per accertarsi se fossero tutti chiusi. A me ha dato più nell'occhio questo. Devo dire che è un po' di norma far abbassare le sedine negli aerei, soprattutto intercontinentali, però di notte di solito vengono abbassate, vengono invitati i passeggeri durante la notte a passare le tendine, per questioni di luci, di pastiglie, eccetera, eccetera. Di giorno non mi era mai capitato, mai. Se non che dopo un po' tutti le avevamo passate, io un po' incuriosito, un po' per capire perché avessero insistito in quel modo, ho tirato su leggermente la tendina e fuori, ma fuori. Guarda, nella mente ho fatto un paragone come quando tu fai una foto al traffico di notte, traffico automobilistico, lasciando lo curatore aperto della macchina fotografica. Quindi tu dici scie. Scie continue, infinite. Infinite. Una cosa veramente da brivido. E siamo sull'oceano, vero? Sì, sì, sì, sì. Eravamo sull'oceano. Direi proprio sì. E per concludere, viaggio di ritorno. Era di notte però, questa volta. Però la cosa che neanche lì mi ha fatto strano è che io ero con la mia telecamera, perché stavo facendo delle cose, stavo guardando delle cose, e anche lì la hostess subito mi ha invitato immediatamente a metterla via, a metterla nel portabagagli, perché interferiva con le apparecchiature di bordo. Ora, due file davanti a me c'erano due persone, una con un portatile e una con un lettore audio digitale. Loro invece non erano tranquillamente usavano le loro apparecchiature. Tu quella telecamera non doveva filmare certe cose. La telecamera non si poteva assolutamente né piombata addosso, come se si stesse guardando la signorina. Allora sono informati, queste persone sono informate di quello che sta succedendo e noi non dobbiamo sapere. Non sono informate, quantomeno se ne rendono conto. Se ne rendono sicuramente, cioè, poi sai, anche loro probabilmente avranno delle disposizioni, poi non si sa se effettivamente loro si pongono delle domande o si seguono a testa bassa. Se ne studiano anche loro quelle che sono state, ormai. Sì, beh, si prende, Sì. Grazie dell'informazione, veramente della tua esperienza, e grazie da aver contattato la Roma 5. Da Bologna, vero? Da Bologna, ispirata. Ecco qua. Allora, questa è una delle diverse testimonianze a disposizione, perché questa telefonata che è stata fatta su Radio Gamma 5 viene in seguito alla pubblicazione di un articolo del giornalista Don Bosco, il quale relazionava su una testimonianza simile. Quindi anche questo ascoltatore di Radio Gamma 5, che è una radio qui nel Veneto, aveva deciso di lasciare anche la sua testimonianza. Anch'io, che ho volato l'anno scorso su un aereo di linea, per recarmi a Roma, ho potuto verificare di persona che davanti a me c'era un ragazzo col portatile, a lui l'hanno lasciato stare, io che avevo tentato di fare una ripresa delle scie chimiche all'esterno e anche più basse di quota rispetto all'aereo sul quale ero, subito sono stato fermato dalla hostess che mi ha intimato di spegnere la videocamera in quanto apparecchiatura elettronica che dava fastidio ai sistemi dell'aereo. Però, ripeto, la persona che ho portato davanti a me l'aveva lasciata stare. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va, tant'è vero che abbiamo potuto osservare che durante la grossa diatriba che c'è stata tra i piloti all'Italia e la CAI, abbiamo notato un affievolimento dei passaggi, di vari velivoli che rilasciavano normalmente scie chimiche, nell'arco di quei 7-10 giorni in cui c'era stata appunto questo fermo da parte dei piloti dell'Italia. Sappiamo anche da una testimonianza che ci è venuta recentemente che alcuni piloti della Ryanair si recano presso una base militare, della quale adesso non mi sovviene il nome per cui preferisco non sbagliarmi, si recano presso una base militare in Svizzera e da lì non escono se non con l'aereo. Sappiamo anche, abbiamo detto, che alcuni aeroporti militari ormai sono anche a disposizione per le compagnie low cost, per i voli civili, e sappiamo anche che per esempio qualche giorno fa c'è stato un incidente in volo, un aereo della Ryanair ha avuto un misterioso contatto, si dice, con uno stormo di uccelli e quindi è sceso in atterraggio di emergenza. Fatto sta che lo stormo di emergenza, lo stormo di uccelli aveva ufficialmente danneggiato un motore, però l'aereo era atterrato su un carrello solo e i primi ad accorrere attorno a questo aereo sono state delle camionette militari. Dopodiché l'area è stata interdetta all'accesso da parte di altri civili e l'aereo è rimasto sulla pista un giorno e mezzo senza poter essere rimosso, quindi i decolli di atterraggio sono rimasti, non potevano essere più effettuati da quell'aeroporto. Quindi c'è qualcosa che non quadra, evidentemente c'è più di un incidente che sono avvenuti quest'anno sui quali ci sono diverse testimonianze che non collimano con i dati reali. Per esempio qualche mese fa c'è stato un forte boato e la testimonianza da parte di alcuni cittadini nella zona della Siria, giù in Calabria, e alcuni testimoni parlavano di uno scontro in volo di due velivoli. Abbiamo visto che questi velivoli spesso si incrociano in maniera molto incosciente, quindi anche qui bisogna pensare che in questo caso non sono aerei di linea, voglio sperare. E c'era stato, secondo alcuni testimoni, uno scontro tra due velivoli, Fatto sta che è stato ufficialmente spiegato che il boato era dovuto al bang supersonico di due caccia che erano andati ad intercettare un aereo cargo tedesco che noi abbiamo verificato non esistere, cioè quel cargo che era stato dichiarato dalle spiegazioni ufficiali militari non aveva volato su quell'area quel giorno. Quindi anche certe spiegazioni che ci vengono date ufficialmente sono sicuramente un po' per lui. Allora, vediamo un po', io direi a questo punto magari anziché fare alla fine interrompiamo un attimo, così se avete da fare delle domande, qualcuno di voi da fare delle domande, io intanto vedo un attimo cosa fate vedere e sentire qua.